sono venuto a rompere i coglioni a nessuno. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Eccolo Insigne, taglio di Callejon. Insigne calcia, deviazione! La palla si infila! Lorenzo Insigne con deviazione al 39esimo! Porta il Napoli in vantaggio e in questo momento in testa alla classifica! Di palla deviata per Bonaventura! Che all'improvviso, al primo tiro in porta, fa 1-1 al 44esimo sulla deviazione di Koulibaly! Sul lato, scelto Isai, posizione regolare, cross di prima per Mertens, palo, e poi la mette fuori Bacca in calcio d'angolo. E Banti dice che non ce n'è più anche nel match, finisce qui, Napoli-Milan è 1-1. Sono contento perché volevamo fare il risultato qua a Napoli, sapevamo che sarebbe stato molto difficile perché loro su 12 partite giocate in casa hanno fatto 10 vittorie e 2 pareggi. Volevamo anche riscattare quella 4-0 in casa e siamo riusciti, siamo stati bravi e tosti come piace a me. Vedendo i dati loro hanno giocato in area nostra 10 palloni e nel primo tempo non erano sicuramente più di 3, quindi un po' di rammario per aver chiuso il primo tempo così e nello sviluppo di un'azione viziata palesemente da un fallo su Isai. La squadra ha fatto quello che doveva fare, mi dispiace per lo stadio non aver vinto perché lo stadio stasera è stato uno spettacolo. Molto probabilmente siamo meno brillanti di prima nei giocatori decisivi, però questo fa parte della normalità di una stagione, anche se stasera ho visto più facilità arrivare a creare occasioni. Mi sembra incredibile perché li abbiamo comunque massacrati, abbiamo fatto il nostro gioco come sempre, la partita non è andata la palla non è andata dentro, però noi abbiamo fatto il nostro gioco come sempre e non è cambiato niente. Ho imparato nel mio mestiere che le parole dei presidenti bisogna ascoltarli, non commentarli. Il presidente c'ha ragione su tutto, andiamo per la nostra strada e cerchiamo di toglierci soddisfazioni e provare a lottare, magari arrivare ai terzi e magari anche vincere Coppa Italia. Film sonoro della serata di ieri di questo Napoli-Juventus, Napoli-Milan, in cui si attendeva il controsorpasso napoletano alla Juventus, cosa che non è arrivata. Siamo esattamente sul crinale di una delle catene montuose più interessanti della stagione. Juventus ovunque mantiene il primato, come detto, e stasera aspetta la partita di cui si parla da 2 mesi. Ciao Giovanni Capuano. Ciao Carlo. Sta arrivando anche Pardo da qualche parte perso negli anfratti del Sole 24 Ore di Radio 24. Ci sono anche gli avversari. Ieri sera un buon Milan alla Mihajlovic, ruvido, ordinato, fisico. Il Napoli ha giocato secondo me un buon primo tempo, un primo tempo certamente più intenso e più veloce rispetto a quello con la Juventus, ma non riesce a dare munizioni a Higuain. Che dici? Dico che la lettura che ha dato Sarri, poi lo sentiremo, quello che manca un po' di culo, che il gol del Milan è regolare, che la squadra comunque gioca bene, non ha un calo fisico, credo nasconda forse qualche problemino, perché se una squadra che ha fatto 79 gol fin qui nelle ultime 3-4 partite sta facendo fatica e anche ieri ha fatto fatica a trovare la via della porta, evidentemente qualche segnale va interpretato. Poi tra le righe Sarri ieri sera ha detto che effettivamente manca un po' di brillantezza negli uomini chiave. Il problema è che se negli uomini chiave c'è Higuain, che quando non segna il Napoli viaggia più o meno a un punto a partita, se tra gli uomini chiave c'è Jorginho, Allan, quelli che abbiamo visto ieri, e anche Hamsik, questo è il momento decisivo della stagione, perché il Napoli non si può fermare. Adesso c'è il Villarreal, poi c'è una trasferta durissima che potrebbe addirittura rimettere in corso la Fiorentina per il secondo posto, e allora c'è davvero il rischio che il treno passi, sì. E quindi secondo me forse l'analisi da fare è un po' diversa da quella che ha fatto Sarri. Il momento è determinante, ma anche fisiologico questo calo, questa flessione, che speriamo non incida tanto sulla Juventus, ma io mi aspetto stasera una Juventus molto brillante con il Bayern di Monaco. È comunque una partita che hanno in testa già da tempo, probabilmente dal momento in cui hanno chiuso vittoriosamente la partita con il Napoli. Non mi aspetto una Juventus in difficoltà nemmeno fisica stasera col Bayern. Guarda, su questo stasera vedremo se il pareggio di Bologna è stato un caso legato alla Champions o se anche la Juve, quei piccoli segnali che ha dato dal Genoa in poi, messi insieme, fanno più di un indizio. Io stasera mi aspetto una Juve in fotocopia rispetto a quella che Allegri ci ha regalato nelle ultime due stagioni nelle grandi notti di Champions in casa. E quindi una squadra che lasci il pallino del gioco all'avversaria e faccia male, provi a far male in verticale, perché questo è stato l'anno scorso col Borussia Dortmund, col Real Madrid, è stato quest'anno con il Manchester City, ha provato a farlo nella finale di Berlino con il Barcellona, l'ha fatto al Bernabeu nel ritorno l'anno scorso della semifinale. E quindi io mi aspetto ad esempio un possesso palla Juve sotto il 50, sì, ad esempio, ma non solo perché il Bayern di Monaco è dominante da questo punto di vista, ma per precisa scelta tattica di Allegri. Si tratta di capire dove inizierà il pressing della Juventus, se sarà alto oppure se li aspetteranno nella loro metà campo. Il problema sarà quello di, anche qui, di tagliare i rifornimenti al bombardiere polacco Lewandowski. 800 24 00 24, di tutto questo e molto altro parleremo in Tutti Convocati. Vi aspetto dopo il traffico. Tutti Convocati. Tutti Convocati. Questa sera era l'occasione per il controsorpasso sulla Juve. Che cosa è mancato? Un pizzico di culo. Ecco. Ciao per Luigi Pardo. Se durante la trasmissione sento pronunciare di Totti, una sola volta Totti, la parola, regaliamo un ascoltatore Totti, alla radio. Te cambio canale, vado ad ascoltare Radio Maria. Premio del giorno per Giuseppe ancora, da Verona. Ancora? Totti. Alla Pizzulla. Che salutiamo, il professor Bruno. Salutiamo anche Giuseppe che andrà ad ascoltare Radio Maria. Io invece saluto e ringrazio con Pardo che è arrivato, Giovanni Carbone con me. Tatti. Fra poco arriva anche Marco Natatti. Saluto il direttore per Paolo Marino. Ciao direttore. Buon pomeriggio. Come stai? Molto bene, grazie. Come va? Tutto bene? Ma è meglio Spalletti di Garcia? Scusa la domanda, però chiedi la Pallotta. Dopo quel tweet lì. Chiedi la Pallotta, cosa ha detto Pallotta? Pallotta ci è andato leggero questa mattina sullo sport, su Garcia. Sì, insomma, avete fatto la domanda, datevi la risposta. Penso che l'abbia data anche il presidente, anzi. Mi meraviglio, perché a me dispiace quando mi danno ragione dopo. Magari potevano darmi ragione un po' prima e la Roma almeno era ancora in Coppa Italia, magari senza quella figura barbina con lo Spezia. Sì, però direttore, non è un po' ingeneroso oggi in maniera postuma scaricare così Garcia? Io dico da parte di Pallotta. No, ma anche due secondi posti, voglio dire, insomma, ecco. Forse anche soprattutto economicamente, perché poi dal punto di vista del tifoso, il tifoso può anche dire vabbè, a me del secondo posto, se poi faccio figure barbine in Europa me ne frega poco. Però dal punto di vista di Pallotta, insomma, Garcia è quello che ha contribuito a fargli fare incassi di un certo tipo. Ma secondo me la parola economico c'entra anche da un altro punto di vista. Se pensava davvero quelle cose del suo allenatore, ha aspettato così tanto a sostituirlo, probabilmente ha fatto due conti, no? Sì, però il problema è questo, che Pallotta vive lontano, ha delegato molte cose, no? E quindi probabilmente si è fidato dei suoi collaboratori che gli davano indicazioni positive sulla prosecuzione con Garcia. E quindi io credo che questa qui di Pallotta siano delle dichiarazioni che tendono anche un poco a riportare lui al centro del villaggio, del potere decisionale, sì, per dirla proprio alla Garcia, insomma, la fatidica frase, è perché in realtà quando lui dice Spalletti ha stravolto in meglio la Roma, e probabilmente ce l'ha pure con chi l'ha difeso e l'ha tutelato fino in fondo, diciamo, fino all'inverosimile. Senti. Perché sì. Io quel tweet l'ho fatto, quel tweet su Garcia l'ho fatto dopo la partita con l'Atalanta, che fu a inizio dicembre, insomma, sì, ci hanno messo, sì, ci hanno, sì, messo troppo per decidere da allora, perché era evidente che l'Atalanta, con tutto il rispetto, perché la squadra che ho fatto io, quella che giocava a dicembre, non quella di ora, e dico quella squadra lì, comunque lo dice chi l'ha costruita, non era il Real Madrid, ma in campo quel giorno, al cospetto di una Roma sbrindellata, sembrava il Real Madrid l'Atalanta. Direttore, voglio chiederti una cosa, così tanto Giuseppe è già andato ad ascoltare Radio Maria, quindi non, non ci interessa. No, ti chiedo, prima di passare al Napoli, prima di passare all'argomento Napoli che ci interessa parecchio, tu ovviamente hai allenato qualche personalità, no? Come giocatori, allenato, hai diretto qualche personalità, sì. E mi riferisco al Napoli che tutti conoscete, Maradona, eccetera, eccetera, eccetera, compagnia cantante. Il tuo pensiero su Totti? Ecco, io è difficile dare il pensiero su Totti, perché in realtà secondo me sono state due prese di posizioni nevrotiche, uterine, perché reputo innanzitutto le dichiarazioni di Totti fuori luogo in quel momento lì, alla vigilia di una partita, e poi naturalmente la reazione di Spalletti non è stata per niente democratica, anche se Totti con le sue dichiarazioni tendeva a mettere in dubbio la leadership della Roma nelle mani di Spalletti, come l'aveva invece consegnata Pallotta quando Spalletti è andato lì in America e ha voluto che andasse apposta lì per firmare il contratto, come se avesse voluto suggellare quella come una sua scelta, e probabilmente Spalletti ha voluto assicurazioni su quella che era il suo, diciamo così, potere, certo, nella gestione della Roma. Quindi Totti con quell'intervista ha messo in dubbio questo, e io, siccome conosco bene Spalletti per averlo avuto 4 anni con me, so che è un po' un fumino e ha reagito subito in una maniera violenta. Magari si poteva essere più diplomatici, perché se anziché farlo giocare come voleva, magari lo metteva in panchina, era un po' una cosa un po' più morbida. Non sono i comportamenti giusti questi, mi verrebbe da dire. No, io sono d'accordo, cioè, secondo me alla fine tutti e due hanno commesso un peccato veramente di nevrosi, cioè tutti e due si sono fatti prendere dall'istinto, ed è la classica Sì. Ce ne aggiungo anche un altro, se mi consenti, di errore, per dirla proprio tutta, perché anche la Roma, diciamo, ha vigilato poco sull'intervista abbastanza, di Totti. Questo, certo. Abbastanza, anche se poi capite che chiaramente anche in questo Totti è un giocatore speciale, nel senso, io ho parlato un po' con gli addetti stampa della Roma, è chiaro, insomma, se Totti vuole dire una cosa, sì, e il fatto che l'abbia detta a Trigoria indubbiamente mette una responsabilità oggettiva a chi non ha vigilato. L'avrebbe potuta dire comunque a casa o in un bar a 200 metri dal centro sportivo, perché chiaramente Totti è Totti, e insomma, fra i diritti che si guadagnano sul campo c'è anche il fatto di poter parlare, di poter essere così mediatico. Sì, però visto che avete parlato di Maradona, io ora vi voglio fare un esempio semplice. C'era il povero Carletto Giuliano, che purtroppo ci ha lasciati, è andato in cielo, ma era l'addetto stampa del Napoli dei miei tempi, di Maradona, che immaginate un po' che lavoro doveva fare con Maradona, insomma, perché, però era così bravo che Maradona, per dire qualcosa, per esempio contro Bianchi o chi che sia, aspettava di andare in Argentina e le faceva, sì, da lì le, sì, dichiarazioni. Ricordo. Perché in Italia Carletto lo marcava peggio di uno stopper imbufalito, insomma, quindi salutiamo. Salutiamo con un bel applauso Giuseppe da Verona, che è tornato da Radio Maria a Radio 24, perché su Radio Maria stanno parlando della Juventus, allora sono tornato qui. Ma anche noi poi parleremo della Juventus. Perché Radio Maria parla della Juve, mi sembra difficile. Anche se, scusate, il momento blasfemo, stasera diciamo che c'è bisogno di tutto, forse anche di un Ave Maria, cioè, nel senso che la partita è talmente complicata che anche l'aiuto divino può essere utile, o no? Per chi crede. Dico, per la Juve col, sì, Bayern. Quello non deve mancare mai, perché senza quello non basta il saper giocare bene, cioè poi lo possiamo chiamare positività, lo possiamo chiamare come vogliamo, però comunque la Juventus non è la favorita di questo turno di Champions League e quindi deve sovvertire il pronostico, e per sovvertire il pronostico ci vuole anche l'aiuto dei santi. Direttore, passerei al Napoli perché ti preoccupa questo Napoli. Primo tempo ha ritrovato, mi sembra, il ritmo, però è sempre in difficoltà in alcuni suoi giocatori chiave e Sarri l'ha ammesso. Sarri peraltro molto nervoso, di nuovo espulso. Hamsik, Allen, Jorginho, alcuni uomini determinanti non sono più in grado di fare in questo momento quello che facevano prima. Higuain non segna anche perché le munizioni non gli arrivano e quindi qualche problema si è confermato pur con un buon Milan. Sì, guarda, questa era una cosa che purtroppo io l'avevo detta tempo fa, cioè il Napoli non ha ricambi all'altezza dei titolari a centrocampo, cioè questi tre giocatori che tu hai elencato sono i titolarissimi e si sapeva che prima o poi avrebbero dovuto accusare perlomeno un calo fisico oppure non reggere quei livelli e quegli standard di rendimento che avevano avuto finora, e nel mercato di gennaio si poteva fare di più perché se guardi la Juventus ha dei giocatori nel momento in cui deve sostituire i suoi titolarissimi che sono competitivi alla pari, se penso a uno fra Morata e Zazza in panchina. Cruciani ci sta facendo le corna dal vetro. Ah, è vero, eccolo qua. Vuoi salutarlo? Aspetta che te lo chiamo. Lo vedo più di mia moglie, ormai la situazione è fuori controllo, lo vedo sempre. Giuseppe Caruso, perdonateci, se volete tornate pure a Radio Maria, qui è una carrambata. Sì, cioè, Paolo Marino, Cruciani, ex Radio Maria, lo ricordiamo. Ex Radio Maria. Lo sai che mi hanno offerto una volta di andare a Radio Vaticana? Perché tanti anni fa. Metti la cosa che c'è Pierpaolo Marino che ti vuole salutare. Sì. Ciao Giuseppe. Dov'è Pierpaolo? Dov'è? Eccomi, Giuseppe. Ciao Pierpaolo, come stai? Bene, bene. Perché, da dove arrivi? Perché ti hanno convocato questi delinquenti qua, questi tre qua? Per parlare del Napoli, parlare di Totti. Sì. Indovina, per recitare qualche rosario. Io sono sicuro che lui, essendo molto ecumenico, ma dicendo le cose molto chiare, credo che, anch'io sono stato troppo democristiano con Marino in questo caso, comunque ecumenico ha dato ragione un po' a Spalletti e un po' a Totti. Ha detto che hanno sbagliato tutti e due. Però è la stessa cosa. Sai che Cruciani, dopo Berlusconi, anche Cruciani diventa vegetariano. La notizia dell'ultimissima ora, non mangerà più il coniglio in diretta a Radio 24. Come la vedi questa svolta di Berlusconi? Beh, amico mio, la notizia del giorno. Berlusconi che diventa vegetariano, ma l'altra notizia è quella incredibile che Berlusconi pare andasse in giro da piccolo con un campanellino, no? Non l'avete letta bene la notizia, con un campanellino per non uccidere le formiche, perché aveva paura, e pensava di avvertire le formiche che erano lungo il suo percorso. Questa mi sembra una stronzata tremenda. Beh, ti giuro, no, è vero. Non ti consento di dire queste parole. No, va bene? Sembra una stronzata. Chiudiamo questo postribolo. Ecco, una vergogna, Cribio. No, però questa svolta vegetariana, i calciatori che mangiano? C'è sempre sta Brezaula, Marino. Ma no, ma c'è Higuain che ha fatto la dieta. Higuain ha fatto la dieta con i frutti di mare. Sì, quella è la migliore. Però scusate, i molluschi possono essere mangiati, mi dicono, perché non hanno il sistema nervoso? C'è una mia amica vegetariana che mi stava cercando. Ci sono vari gradi. Sono pericolosi, non vanno mangiati nell'imminenza della partita, chiaramente. Certo. Ma Pierpaolo non ha di questi problemi perché mangia, anche se l'ho visto un po' dimagrito recentemente, comunque mangia abbondantemente. In grande forma il direttore. Grazie. Senti, chiudiamo il discorso sul Napoli prima di salutarti. Sì. Sono curioso di sapere cosa ne pensi. È un Napoli in difficoltà oppure no? Mini crisi o no? Beh, mini crisi direi di sì, perché se solo riflettiamo sul fatto che in tre partite, in quattro, ha fatto tre gol. Prima della partita col Carpi, ogni quattro partite ne faceva quasi 12, quindi un po' di crisi, una mini crisi c'è. Quindi però... si sta giocando il campionato, perché poi domenica c'è lunedì c'è la Fiorentina, questo abbiamo detto, è il momento decisivo della stagione, se tu ci entri in crisi, mini o no, rischi di uscire troppo lontano dalla Juve. Sì, però ora è chiaro che bisognerà vedere anche Sarri che correttivi saprà apportare, perché per quanto la rosa sia ristrettissima, ora lui prima o poi dovrà toccare un po' gli 11 titolarissimi, perché prima si diceva squadra che vince non si tocca, ora qualche accorgimento dovrà prenderlo, perché non può andare sempre sul monotematico così, perché veramente si Ma tu col Villarreal che cosa gli faresti fare se fossi il suo direttore generale? Sbagliato, secondo me è sbagliatissimo. Manda le riserve, manda chi se ne frega dell'Europa League. Secondo me è importante, quella partita deve passare, no, Pierpaolo? Sì, deve passare, perché non è che tu, se lasci il Villarreal, vinci lo scudetto matematicamente. Esatto, insomma, quindi esatto. Bisogna tenere, per vincere un obiettivo bisogna perseguirne tre o quattro durante la stagione. Ah, sì, deve far giocare i titolari, dai. Deve far giocare i titolari, magari deve far riposare quei centrocampisti che avete elencati prima, gli Allan, gli Amsic, e no, magari cercare di mettere... Sì, poi c'è Giorginio che c'è Valdifiori. Ma hanno trovato l'antidoto? Ieri sera se ne parlava, insomma, c'era Auriemma che diceva che il Carpi sta facendo scuola, cioè che da quando c'è stata quella partita si è capito che il modo migliore per fermare il Napoli è parcheggiare l'autobus. Diciamo che quel metodo lì li mette in grande difficoltà quelli del Napoli, perché il Napoli è una squadra che fa della velocità, dell'aggressione, degli spazi la sua arma migliore. È chiaro che se gli lasci degli spazi alle spalle dei difensori, li mandi a nozze, gli Insigne, i Galeon, lo stesso Higuain. E disponendosi così, come da provinciali o col vecchio contropiede all'italiana, naturalmente le squadre che l'hanno fatto hanno ottenuto i risultati. Anche Garcia riuscì a pareggiare a Napoli con una Roma che sembrava fosse il Carpi, sì, diciamo. Ha torto. Insomma, Sarri quando dice che è questione di culo. Cioè, da dove siamo partiti? Cioè, quella lettura lì che ha dato Sarri ieri sera. Il palo, ovviamente, è il culo di cui parla Sarri, no? Sì, cioè... però quella è una cosa che può capitarti a favore o contro. Sì, ti capita due volte in Napoli-Inter e ti va bene negli ultimi due minuti, ti va male col Milan. Che comunque è andato in vantaggio, e non è un dettaglio, secondo me, perché sì, proprio per il discorso che faceva prima Pierpaolo, insomma, la partita si era messa in una maniera tale che potevi aspettare, ripartire e usare gli spazi. È vero che il Milan ha pareggiato quasi subito, però insomma, secondo me sono segnali di stanchezza, sì, forse anche un po' mentale e della poi squadra. Soprattutto, detto questo, per me rimane 50-50. Ci sono state altre... Sì, però scusa, riflettete un attimo. Il Napoli sono 7-8 mesi che gioca sempre con gli stessi 11. Certo. Cioè, è l'unica squadra di vertice che fa questo. Sì, nemmeno la Fiorentina, cioè, sì. Nemmeno quindi, nessuna. E quindi praticamente bisogna anche capire che siamo degli uomini, cioè i giocatori sono, per quanto sono degli atleti, comunque hanno i loro tempi di recupero, le loro modalità di dover ogni tanto tirare il fiato, e al Napoli non è stato mai fatto questo, perché la rosa probabilmente non lo consente, se non in attacco, dove hanno Gabbiadini, dove hanno dei ricambi all'altezza. Ringrazio il direttore Pierpaolo Parrino per questa intervista, che avrà fatto un enorme piacere al presidente De Laurentiis. Non so che ha detto prima. Perché dice che non il Napoli sul mercato ha avuto il braccino corto. Non sta che il Napoli sia un pochino più corto. Mi pare però che ha detto solo le cose come stanno. È vero. Ha pensato che non ci fosse bisogno di altri interventi. È verdad. No, ma è stato anche sfortunato, perché ha preso Grassi che si è infortunato subito. Quindi. Però io queste cose le dicevo già ad ottobre. Sì, ce lo ricordiamo bene, direttore. Grazie. Infatti De Laurentiis si voleva prendere Herrera e qualcun altro. Voleva altri giocatori, anche Sarri voleva altri giocatori, nonostante lui del mercato non si interessi. Se ne interessa dopo, quando è finito, non gli hanno preso quelli che voleva. Grazie, direttore. Ciao. Vai. Che fai, Crociani? No, giusto per far sapere. Beh, farti un carciofo? Fai. Vabbè, lo decidiamo durante la borsa. Pensavo fossimo andati in pubblicità. Che no, borsa. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri. Nuove storie a Il Falco e il Gabbiano. L'uomo che ha viaggiato prima col corpo e poi con la fantasia, Ambrogio Foga. L'attore vittima della sua bipolarità, Peter Sellers. Uno straordinario uomo d'altri tempi, l'allenatore Nereo Rocco. Colui che ha fatto delle arti marziali un grande spettacolo, Bruce Lee. varcando le frontiere del sesso per uno sberleffo al potere, l'editore Larry Flint, il signore della pornografia. Tutti i giorni alle 15:30, naturalmente su Radio 24, vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Tutti convocati. Qui si passa dai, quanto riguarda i messaggi, dal Berlusconi come un monaco tibetano, domanda un ascoltatore, e al Berlusconi pur di prendere i voti diventerebbe testimone di Geova. Guarda Luciani che mangia, che cosa sta mangiando? Il sedano, sta mangiando il sedano. Ma che stai? Sì, sta mangiando il sedano, ormai la svolta vegetariana del signor Cruciani, ne parleremo stasera alla Zanzara, Sedano, patate e cipolle, poi farro, mangia il farro e non mangia più la carne. Leonardo da Verona. Tanta patata. Signor Leonardo, come stai? Io abbastanza bene, potrebbe andare anche peggio. Potrebbe piovere. Dove sei esattamente? Geolocalizzati, sei a Verona città, a Verona centro? Verona nord, diciamo, nord. Davanti al mio gommista, in attesa di sistemare le mie gomme. Saluta, la mia multipla. A metano. Salutaci il gommista. Un saluto al gommista, la multipla, al metano. Salutaci, chiedigli che ti faccio uno sconto. Ma Hellas o Chievo? Hellas, penso. No, io sono Chievo. Milanista, quindi ho delle memorie storiche che l'Hellas mi ha procurato. E quindi per forza devo dire Chievo. Okay. Per forza, sì. Cosa dici? Riconosco che Verona ha una storia e quindi va rispettata. Certo. Poi cosa ci volevi dire? Io sono milanese, ve l'ho appena detto. Io sono molto, molto, molto deluso perché non abbiamo più un'identità da Milan. Ieri sera ero da solo che mi guardavo la partita. A un certo punto non ce la facevo più perché non posso vedere un Milan da provinciale che si mette a difendere, neanche fosse la finale di Coppa Campioni, dico, ma non esiste il Milan era meglio vederlo bello aperto a prendere il contropiede del Napoli. Posso dire, francamente, ieri non lo so. Posso capire sul periodo la frustrazione, certamente, perché insomma il tifoso del Milan è abituato che nessun padroni del gioco, padroni del campo, eccetera, ci mancherebbe altro. Però insomma ieri secondo me è stata una partita tosta e brillante, no? Dai, cioè comunque a Napoli quella partita lì la puoi anche fare. Non credo che ci sia. L'ha fatta la Roma, come ricordava Marino un paio di mesi fa. Sono le uniche due che hanno pareggiato. No, anche la Samp. Anche la Samp all'inizio della stagione, da 2-0 a 2-2, esatto. La lettura mi sta bene, però è una lettura che dovrebbe limitarsi a una o due occasioni all'anno, ma ormai è un trend che va avanti da secoli, secondo me, perché io non ho più memoria del Milan che piaceva a me, che imponeva il suo gioco, che vinceva, d'accordo, non si può sempre vincere, però il mercato del Milan non è possibile accettare di vedere un Montolivo e in giro ci sono Papu, Gomez, senza voler andare a cercare Ilicic, c'è, voglio dire, Baselli. Guarda, io sono convinto che se Galliani quest'estate avesse portato al Milan Baselli, che tra l'altro ha cercato di portare, Papu, sì, Gomez, sì, e Ilicic, sarebbe stato lapidato, sì, fuori da Milanello il giorno del ritiro. No, il Milan però è stato costruito così, cioè ad esempio Bacca è un giocatore che non tiene sul pallone, è uno che quando lo attivi e la perde ti ritorna indietro e ti costringe a giocare basso. È stato costruito così, però il tema secondo me è se è funzionale o no fare risultato, e ultimamente lo è, e quindi ben venga questo Milan. Poi dopo, se volete un Milan diverso, ripassare ad altra data, ribadisco che a differenza degli anni scorsi vedo un'idea. Poi probabilmente non è un'idea la squadra che possa dominare come per esempio la Juve in questi ultimi anni, però vedo l'idea di un progetto. Insomma, il portiere è giovane, può durare tanti anni. In difesa ci sono giocatori comunque che stanno crescendo, Calabria, di prospettiva. Sciglio è un grande punto interrogativo, però insomma sicuramente non è vecchio. Romagnoli comunque può rappresentare qualcosa di importante. Lo stesso Antonelli secondo me è un giocatore comunque discreto. In mezzo al campo c'è un giocatore superiore che è Bonaventura, che lo sta dimostrando di partita in partita. Insomma, si intravede qualcosa rispetto agli anni scorsi. Poi capisco benissimo la frustrazione, ma secondo voi la Fiorentina, che adesso è a -6 rispetto a? Cioè rimane una sfida a 2? Sì, per lo scudetto credo di sì. Anche dovesse lunedì sera poco, vincere la Fiorentina col Napoli. No, anche secondo me, però dico, mi faccio non è una distanza, sì, ma se stiamo parlando delle difficoltà della rosa del Napoli, anche fisicamente a reggere, figuriamoci per quello che possiamo dire. Però dipende anche dall'Europa League, da chi va avanti. Più che altro il rischio che diventi torni ad essere una sfida a uno, perché se Napoli perde a Firenze potrebbe tornare ad essere una sfida a una sola, cioè alla Juventus contro se stessa. Marco Nosotti, ciao. Bacio. Ciao, buongiorno a tutti. No, ti ho chiamato per risollevare il rumore dell'ascoltatore di Verona che mi sembrava totalmente coinvolto nella sua depressione rossonera. Avviluppato nella sua depressione. Non è il caso, diglielo. Ma secondo me no, nel senso che vabbè, dopo questo pareggio si allontana di più il terzo posto, che dicono essere non più sogno, non più utopia ma sogno. Ma ieri si è visto che il Milan stavate dicendo bene, il Milan è quello lì, sta facendo al meglio quello che può fare, secondo me. Cioè la squadra che sale lì sta in linee ben definite, vicine, corta, che riparte e che ha quelle caratteristiche lì, non si sta naturando, ma va avanti per quella strada lì. E poi adesso c'è un bel calendario per il Milan, perché tutto sommato arrivano partite che sulla carta sono abbordabili, mentre le altre là davanti si scontrano già a cominciare dal doppio scontro diretto del prossimo weekend. Quindi il Milan è questo, il Milan sta lavorando sugli italiani, devi prenderne tre giocatori di qualità superiore, uno da affiancare in prospettiva a Romagnoli, ma già uno da mettere in mezzo e un esterno d'attacco, perché il Gazzi lo puoi portare, è giovane, con 10-11 milioni lo stanno facendo, quindi per dire, tutto sommato vai a mettere 3-4 giocatori forti in un sistema di gioco ed in un gruppo che funziona così, e però devi parlare chiaramente alla gente, dire non vi abbattete, perché diamo un'occhiata al bilancio, portiamo avanti i giovani oggi ti portano in cielo e domani ti portano all'inferno, però ci vuole tempo. Sì, magari sarebbe anche il caso di dare un po' di tempo a chi si siede sulla panchina. Ieri sera Berlusconi ha spiegato a Telelombardia che era una battuta la storia delle 13 vittorie consecutive, però oggi voi quanto scommettete sull'idea che Mihajlovic a fine stagione resti l'allenatore del Milan? Io non più di 50 centesimi. Sì. Il problema è quello lì. E poi adesso voglio capire, ma lui, dopo che tutta questa situazione è stata montata su, eccetera, eccetera, ci vorrà poi stare, voglio dire, non è presunzione, ma è soltanto spirito di sopravvivenza, perché l'altro ieri c'erano parole importanti in quella conferenza stampa, dice, vabbè, andiamo alla fine, vediamo, tiriamo la riga e poi deve essere soddisfazione reciproca. Non è un rigurgito di supponenza, alla fine Berlusconi lo conosciamo, sappiamo che spesso ha pungolato i suoi allenatori, anche allenatori che hanno vinto, penso per esempio a Zaccheroni, certo. Questo è vero. Però devo dirti il livello di critica nei confronti di Mihajlovic mi sembra nettamente sotto al par, cioè mi sembra in linea con i risultati. Insomma, dice deve ancora convincermi. Vabbè, ma quelle sono le cose, lo sappiamo. Berlusconi ama. E nel momento migliore della stagione del Milan, deve ancora convincermi. Quindi. Però non è molto diverso da quello che ci ha detto Leonardo la Verona un minuto fa, e secondo me non è nemmeno così diverso dalla realtà. Cioè, ad oggi, che voto diamo? Ecco, lo chiedo al Noso: che voto diamo a Mihajlovic ad oggi? Io gli do 7, ma gliel'ho dato anche 3 mesi fa, sai? Perché avevo un'idea coerente e andava avanti così. Se tu aspetti di avere le giocate del Napoli, o quello che potrebbe fare e che ha fatto il Napoli, non te lo aspettare, perché non è un allenatore così, soprattutto non hai giocatori che hanno qualità nei piedi per fare quel gioco lì. E il suo grande pregio, ha dato regole, ha dato un'identità tattica e la capacità di adeguarsi e aderire ad un progetto da parte di tutti. Montolivo sa che può fare quello, non può fare il trequartista, ma fa quel lavoro che sta facendo, grande lavoro di recupero, faccio un esempio. E i due esterni di ieri hanno capito che si devono mettere al servizio, Onda e Bonaventura, per dire. E ieri avevi due linee vicine in cui non passava nessuno, per dire. Ecco, io do 7 anche per la chiarezza delle cose, ripeto, regole, gruppo, identità e poi fisicamente questa è una squadra che corre. Sì, adesso sì. Sempre, adesso sì, ma qualità. Adesso sì, prima meno. adesso sì. Prima c'era anche paura di tutto, un po' più coraggio, un po' più, ecco, perché prima forse le gambe c'erano ma la testa non c'era, perché, certo. Ricordate solo la partita andata con il Napoli, era un guazzabuglio di non idee. Senti, siccome sappiamo che Marco Nosotti c'è il traffico. Ah, poi adesso ti devo chiedere una cosa da portiere, ed ex portiere del Sassuolo Calcio Noso. Fra poco ti faccio una domanda da portiere. Che c'è adesso? Traffico. Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta. Tutti convocati. Bacio. Bacio, Noso. Qua. Ecco, come va? No, ti volevo chiedere. Sono qua sulla fascia. Sulla fascia laterale, la catena di destra. La fascia è sempre laterale. È chiaro? Fascia. Però è rafforzativo, la fascia è laterale. No, ti volevo chiedere, tu sei stato grande portiere del Sassuolo, vero? Grosso, perché il Girovita lo confermo. Ecco, lo sei stato. Stasera c'è una grande sfida fra portieri. Buffon l'ha un po' parata questa sfida. Ha detto sì, Neuer è bravo, ma insomma, ce ne sono tanti bravi. E tu come la vedi? Ma, tanti bravi come noi non lo so mica. Ma sì, perché forse si è un po' rotto le scatole, sente quel cast Neuer, è il futuro, è vero. Ed è veramente bravo. Perché è il prototipo del portiere nuovo, o meglio moderno, che partecipa all'azione, che fa dai 6 agli 8, no, più dei 6 di media chilometri a partita. Perché lavora con tutto il corpo, un po' temerario in certe situazioni, ma è sempre pronto allo scarico. Io come la vedo? Vedo che dalla scuola gioventù, nel senso qualche anno in meno, mai completo 30 anni, Neuer. Mi piace sempre, mi piacciono tutti e due, in un modo diverso, perché si sta adeguando, si è adeguato, Gigio, a giocare coi piedi, ma non essere preciso nel tocco, anche, ma a essere parte integrante dello schieramento difensivo, guadagnando metri, prendendo spazio, occupando non solo l'area, ma tutto il campo. C'è da dire che il Gigio, per me, vede prima tante situazioni. Questo è vero. La palla per lui va rallentatore in certi momenti. Ed è l'unico così, è l'unico, esatto. È l'unico al mondo così. Ti viene dietro, per esempio. Un'ultima domanda da portiere, ma se ti avessero tirato contro un rigore come quello che hanno fatto Messi e Suarez quell'altro giorno, tu come avresti reagito? Gli avresti stretto la mano? Dal punto di vista regolamentare è perfetto, alla prima volta che mi arrivi in area io prendo la palla, Sì. Ma dopo non so cosa. Poi come dicono quelli, resta tutto sul campo. Grandissimo. Ricordiamo che quella cosa Noso in modenese? Purter che ha gambi larghi. Quello lì? Sì. Una cagare nella Furminton. Dai, basta. Cos'è? Gambe larghe non ti danno, per dire che non ti danno la spinta giusta, il contatto col terreno giusto, i buoni appoggi per aggredire sempre la palla. È il problema dei gambi larghi, no? Dei gambi larghi. Gambi larghi, sì, perché ti siedi sui talloni sostanzialmente. Porter con gambi larghi. Grazie, ciao, Marco. Ciao, bene. Grazie, ciao, anche noi, tantissimo. Enrico, il signore Enrico da Bari. Non c'è Enrico da Bari. No. Forse al 37esimo minuto di attesa della ripresa ha avuto un ripensamento, bisogno fisiologico da espletare. Vabbè, fra poco andremo da Enrico da Bari. Sì. Hai capito? Purtroppo con gambe larghe. Sì, poi c'era anche quella seconda parte che non mi è sfuggita. Non lo so. No, mi è sinceramente sfuggita. Amico, il football, le fasce laterali. Tra poco passiamo a parlare della partita che tu stai per andare a commentare. Allora abbiamo pensato, lo faremo dopo il GR, di mettere insieme la gabina di commento di Mediaset stasera. La gabina lo dicono al nord, La gabina. Dicono anche magazzino. Io sì. Sono rimasto sconvolto perché quando sono arrivato a Cologno Monzese ormai 15 anni fa, c'era questo cartello enorme, magazzino. E dico, ma questo non può essere un errore, cioè, voglio dire, non è possibile un cartello sino al magazzino. Invece in milanese si dice magazzino. Sì, ovviamente è sbagliato. Sì, cercare, magazzino. È una libera interpretazione. È tipo Namo. Esatto. Libera interpretazione. Volevo farvi notare un'ultima cosa prima di fermarci, sempre su Napoli-Milan. Mica anche Mihajlovic, anche furbo e cinico, perché ieri, esattamente come contro Genoa, entra prima Menez e poi allo stesso minuto rimette Balotelli. però non ci avrei scommesso, eh. Io neanche. Anch'io, secondo me. Sarà rifatto. Posso dirti che abbiamo parlato lungamente dell'entrata in campo di Totti dell'altro giorno, sì, considerandola comunque, al di là del fatto che per me rimane legittima, però come una possibile offesa, diciamo, alla gloria e alla storia di quel calciatore. Invece, secondo me, la sostituzione di Balotelli ieri è l'esatto contrario. Cioè, tre minuti, solo tre minuti, canta di Negramaro, in tre minuti puoi essere umiliato, offeso o comunque, insomma, può essere uno sgarbo. Invece i tre minuti di Balotelli ieri, secondo me, sono una sorta di speranza, no? Di lancio di una possibilità per il futuro, perché Balotelli sembrava veramente fuori completamente dai radar, e invece, secondo me, quei tre minuti lui dovrà leggere in maniera molto positiva, al di là dell'incontro con la figlia che c'è stato ieri. Non voglio fare dei gossip, però no, insomma, no, è un dato oggettivo nell'equilibrio instabile di un grande giocatore fragile e completamente inespresso. Insomma, c'è anche una componente personale. Ieri c'è stata questa immagine, comunque bella, anche perché non credo che la veda spessissimo la figlia. No. C'è Luigi da Caserta o dobbiamo andare? No, dobbiamo fare sentiamo Luigi, Luigi non fare la fine di Enrico da Bari, eh? Mi raccomando, rimani. Anche è pieno di cose interessanti il GR. Tra poco. Tutti convocati. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della ex strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia. Ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Da lunedì a venerdì alle 17. Solo su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti convocati. Giocheremo contro il Bayern, che è una squadra molto forte, una squadra che è una delle favorite per la Champions, per la vittoria finale. Nello stesso tempo noi abbiamo grandi possibilità di poter andare avanti. Le partite Champions sono tutte gare aperte, il Bayern ha nelle sue caratteristiche e qualità quelle della gestione della palla, della partita. Noi bisognerà essere bravi a togliergli questa possibilità e soprattutto essere bravi a andare a far gol e fare un'ottima fase difensiva. Mi piacerebbe essere qua. Sappiamo contro chi giochiamo, mi piacerebbe essere in Champions League, in ottavi finali. Nel sorteggio ho citato questa partita, ma la verità è questa, sì, la Juve è andata molto molto forte, ha iniziato un po' così cos'ha, a volte è normale dopo la straordinaria stagione che hanno fatto l'anno scorso, ma una volta hanno ripreso, hanno dimostrato quella squadra che credo che Antonio Conte ha fatto una svolta nella maniera di interpretare il calcio italiano, interpretare la Juventus, con una uscita di tre, con giocatori che sapevano ogni giocatore nel suo posto, la palla va dove i giocatori ci sono, non si muovono per muoversi, sempre con un senso. E Massimiliano Allegri ha continuato con questa strada, con grande intelligenza, quindi mi fa piacere, mi fa molto piacere giocare contro la Juve, provarci se siamo capaci di fare una bella partita. Grande fair play nelle dichiarazioni prima di Juventus-Bayern. Posso, scusa, poi parliamo della partita. Mi scrive Nebuloni, professor Nebuloni, sì, che Sky, salutiamo. Che salutiamo, fra l'altro, che facciamo i complimenti perché è diventato papà. C'è una foto da WhatsApp meravigliosa, ovviamente. Complimenti, incredibile. Non ha proprio preso la tempo, cioè proprio zero. Dice che si dice magazzino anche al sud, come fiorista o fioraio, o metto o stampella. Sì. A me sembra che... scrivono che in dialetto lombardo e piemontese si dice magazzin, ma comunque, magazzino. Luigi e Roberto, state lì. Secondo... Marco Dulli, magazzino. Si è chiuso dentro il magazzino. A un certo punto, Marco Dulli, senti quanta romanità. Sei allora... di Roma Nord, Marco Dulli, tu? Roma Nord, ma sei a favore dell'indipendenza di Roma Nord oppure No, indipendenza no, da cosa? Anche da Roma. C'è un movimento, sono tre trentenni, adesso non so se avranno raccolto le firme oppure se l'avranno internati dentro un bar a Ponte Milvio, che fanno il partito per l'indipendenza di Roma Nord, che è una bellissimo, cosa che fa ride, insomma, diciamo la verità, io sono di Roma Nord, fondano, fa abbastanza la Romese, fondano la Romese, squadra partecipa è una cosa, fa troppo ridere. C'è Luigi da Caserta. Luigi, un attimo, perché io devo dare questa notizia, perché c'è Infantino che candidato alla successione di Blatter, che vuole il mondiale a 40 squadre. 40 squadre. Facciamo direttamente con tutte le nazioni. Ti tocca stare al mondiale per mesi. Sono abbastanza... Pensa in Qatar con 40 squadre. Io, premesso che poi alla fine sono cose che dico razionali, poi in realtà più si gioca meglio è. Però, per esempio, la formula dell'europeo a 24 a me non piace. A me piace. No, a me non piace, poi godrò di più perché ci sono più partite, quindi alla fine sarò più contento. Però l'europeo a 16 secondo me era proprio bellissimo. Cioè, ogni partita era incerta, c'era un livello di equilibrio pazzesco. Comunque, se Infantino vuole farla a 40, facciamo. Vuole farla a 40, poi. Facciamo a 48. Il suo rivale, che è il principe. Facciamo 50. No, perché sono 12 gruppi. Da facciamo dentro tutti, Giovanni, e poi facciamo un rankingone mostruoso. Ali Bin Al-Husseini, suo principale avversario, invece chiede che le votazioni di venerdì siano rinviate perché esige gabine trasparenti. Bene, Luigi da Caserta, dica. Ciao, senti, allora volevo dire due cose. La prima, non pensi che Napoli, diciamo, al di là della stanchezza che ci può stare per il gioco che fa dall'inizio dell'anno, che comunque aggredisce sempre, quindi può essere dispendioso, non è che gli altri allenatori, gli altri team hanno capito ormai come diciamo difendersi da questo gioco? Quello che diceva Marino. Allora, posso dire una cosa? In realtà questa cosa delle grandi squadre che hanno difficoltà se gli parcheggi il pullman in area di rigore vale abbastanza per tutte, cioè è ovvio che tutte le squadre che hanno degli spazi offensiva. Ce ne sono alcune che per caratteristiche questo tipo di tendenza la vedono accentuata, e il Napoli sicuramente è fra queste, perché il Napoli ha grandi giocatori di inserimento, quindi è chiaro che se gli lasci campo aperto Poi si è confermato come soffra, sia allergico al 4-4-2 quando se lo trova davanti, però insomma, quindi sono d'accordo, ma questo non vale solo per il Napoli. Per il Napoli secondo me vale forse un po' di più che per qualche altra squadra. C'era un'altra domanda, vero Luigi? Il problema, scusa, è che il Napoli non ha uomini per fare un calcio diverso. L'abbiamo visto a inizio stagione, quando ha provato a fare un calcio diverso, i risultati non c'erano. I risultati sono arrivati con questo modulo qui, con questo modo qui di giocare. Il Napoli non ha la prima punta proprio molto pesante fisicamente, so che può sembrare un paradosso, no? Higuain è un grande giocatore, una grande prima punta, ma è una prima punta di qualità, di tecnica, non è la prima punta da sportellata in area di rigore. Non è. Beh, sai, nonostante la dieta del. No, però voglio dire. Il frutto di mare è comunque un giocatore. Gioco pesante, Higuain, cioè. Sì, però è comunque un giocatore che negli spazi si esalta più che nell'andare a cercare la palla lunga in the box. Contro ecco. Uno. C'era un'altra domanda, Luigi, prego, dica. Se era possibile tornare un attimo sul caso Spalletti, una cosa velocissima. Ma secondo me un dirigente, ma al di là che sia l'allenatore o di una squadra o di qualsiasi altra azienda, che va a risollevare in un posto dove ci sono tantissimi problemi, cioè non dovrebbe avere la mente libera e non porgli un caso, cioè che il capitano gli pone un caso così problematico, cioè non gli rovina un po' il porto dopo che sta a fare comunque un risollevamento un po' di tutto. Sì, ma ha sbagliato, però. Infatti ha ragione Spalletti tutta la vita. Sì, cioè secondo me, allora, sulla sostanza ha ragione Spalletti, poi l'ingresso in campo dell'altro giorno poteva essere in effetti spiegato meglio, perché poi alla fine, secondo me, tecnicamente ci sta l'idea che Totti possa entrare anche a 3 minuti dalla fine, perché Totti ha la giocata, la punizione. 2-0 non è finita, c'è anche un ritorno. Vabbè, ho capito, ragazzi. Allora, questa cosa che ha detto... i soldi del viaggio, non so che dirti, cioè minuti. Mi sembra... No. Questa cosa che ha detto Pallotta, cioè che era anche un tributo, forse questa è l'ultima partita che facciamo in Coppa, magari poteva essere la passerella finale, andava interpretata anche così. Cioè Pallotta ha paragonato Totti a Kobe Bryant, cioè un giocatore che ha già annunciato il suo ritiro. Peccato che Totti la pensi diversamente, però poteva anche avere un fondamento. Però il ragazzi, discorso. Allora, premesso che Totti è unico in assoluto, a Roma è unico, nel senso che veramente... Non c'è nulla che si avvicini a Totti. Totti ha doppiato il principale attaccante della Roma, era stato Pruzzo, credo, 110 gol. 112 gol. lui l'ha quasi triplicato, quindi di che stiamo parlando? Totti è qualcosa per la Roma di unico e di assoluto, di eccezionale, e quindi basta parlarsi. Nel senso, ci può stare anche che Totti dica che vuole andarsi a fare un anno in Giappone, voglia andare un anno negli Stati Uniti, non c'è niente di male. Basta parlarsi e non finirla male, ecco. Tutto qui, secondo me. Ha già 6 anni di contratto come dirigente inchiostrato. Sì, a 600.000 magari possono essere spostati di 2 anni, si può trovare un accordo, si può transare. Io quasi comincio a pensare che quei 3 minuti fossero una provocazione deliberata per provocare una secondo me no. Semmai il messaggio. Più che a Totti è un messaggio al resto della squadra. Spalletti è entrato come un treno. Tutti uguali. Spalletti ha ripreso Florenzi nello Juventus Stadium davanti a 25 telecamere. Ho capito, ma quanto è normale? Il messaggio della squadra è Totti è uno come gli altri. Non è vero. No, però quello che ti sto dicendo è che Spalletti è entrato come un treno su tutti, sì. E quindi anche su Totti. E questa è la sostanza. Poi che Totti rimanga un giocatore geniale, speciale, che rimarrà lì per anni, nella memoria, rimarrà per sempre nella memoria dei tifosi, questo è indiscutibile, e magari ha ancora la possibilità di dare qualcosa, perché l'altro giorno io non credo che Spalletti stesse facendo una captatio benevolenziae, credo che realmente lo volesse in una partita in casa contro il Palermo schierare in campo dal primo minuto. È arrivato Andro Mercu, vieni qui che ci racconti la svolta vegetariana di Berlusconi. Intanto Aldo Serena. Ciao Aldo, vieni Andro. Ciao a tutti, ciao. Come va? Dove sei? A Chivasso? Sono già arrivato a Torino. Ecco, vedi, è quello serio dei due. Io sto per partire. Finisco adesso. Te lo mando, Aldo. No, abbiamo voluto riproporre, radunare la gabina di commento di questa sera. Di questa sera per me. In Veneto, come dite? Cabina o gabina? Cabina. Cabina. Come si dice in italiano, normale. Esatto. Solo, sì. Solo a casa di gente si dice: cabina. Non l'avevo detta io. Esatto. Sta arrivando Mercur, non riesce a aprire la porta. Una scena veramente. Aldo, cosa avete studiato tu e Pardo per la partita di stasera? Beh, studiato credo di averlo fatto. L'ha fatto anche Pierluigi, però credo, penso, per conto suo. Io e lui insieme non abbiamo fatto nulla. L'importante è che la Juventus questa sera abbia fatto i compiti bene a casa e che riesca a non prendere gol e, se possibile, farne uno. Sì, anche lo 0-0 non sarebbe un risultato da buttare via, perché ha ragione Buffon quando dice: il nostro obiettivo questa sera è quello di uscire dal campo con l'idea di andare di avere ancora una partita da giocare e non di andare a fare a wurstel e salsicce assolutamente Monaco. Anche perché significherebbe anche togliere un po' di autostima e di certezze al Bayern. Poi insomma, la Juve l'anno scorso è arrivata in finale di Champions e non c'è arrivata per botte di fortuna, voglio dire, ha fatto, secondo me non deve avere nessun particolare complesso di inferiorità. Poi siamo tutti d'accordo che Bayern sia più forte, perché è una squadra che ha 2 attaccanti che hanno fatto 56 gol in 2 fino a questo momento. È ovvio, con quella qualità che ha, nonostante qualche assenza, è più forte della Juve. Però secondo me è una partita giocabile, non bisogna nemmeno adesso avere questo panico, questo miedo. Punti di forza. Kein Angst, nessuna paura. Punto di forza della Juventus, voi due che avete studiato, potrebbe essere la velocità di Cuadrado e di Dybala nell'uno contro uno. Esatto, soprattutto la capacità di verticalizzare con immediatezza quando la Juventus riuscirà a rubar palla nella propria metà campo, e soprattutto non deve perderla, perché la prima pressione dei giocatori del Bayern sui portatori di palla della Juventus sarà tremenda, è tremenda, lo è sempre stata, e quindi non perdere il pallone e riuscire subito a innescare in velocità Dybala e Cuadrado. Esatto, resistere al pressing, aspettare e ripartire. Ma dove la scelta di Mangio che dove io lo chiedo a mi sembra tutti e tre, scontato, Pardo, Capuano e Serena, dove deve piazzare la linea del pressing la Juventus questa sera? Bassa, medio bassa, 40 metri. Aldo? Non molto alta, ma non abbassarsi troppo, certo. Perché portare Robben, Douglas Costa, portare Müller vicino alla propria area di rigore con Lewandowski sarebbe un suicidio, e quindi non molto bassa, ma neanche andare per una pressione alta in modo da poter lasciare campo agli avanti del Bayern. Deve essere molto giudiziosa, ecco, la Juventus stasera. Sì, e deve tagliare secondo me i rifornimenti a Lewandowski, cioè non lasciare che il Bayern riesca a servire Lewandowski con grande continuità. È questo, certo. Questo... Esatto, per sfruttare al meglio i calci piazzati offensivi, perché sotto profilo fisico è proprio prettamente della stazza, la Juventus questa sera sul profilo aereo, sui calci piazzati, sui calci d'angolo, può essere molto più forte del Bayern. E credo che Guardiola tema proprio questo. Può essere un rischio Mandžukić, che è fuori da tanto tempo, che dirà che non è in grandi condizioni, non è brillantissimo. Sono due possibilità più che due rischi. Sicuramente il fatto se fossero stati al meglio sarebbe stato certamente uno scenario più favorevole, però secondo me sono due recuperi chiave. Mandžukić è un giocatore, al di là insomma del fatto che è un ex, che ha segnato in finale di Champions col Bayern, che ha segnato in quel famoso Juve-Bayern alla Juventus Stadium del 2013, ma è un giocatore che come caratteristica secondo me è decisivo per questa squadra in questo momento. Aggiungerei anche il fatto che insomma avrà il dente avvelenato in Guardiola. Bravo, quindi esatto. Penso che lì questa motivazione sia una molla molto importante per lui. Sì, non si daranno i bacetti entrambi. Anche se francamente insomma no. Diciamo, è partito per far spazio a Lewandowski. Insomma, voglio dire, voi conoscete un attaccante che parte da una squadra ed è convinto che abbiano fatto bene venderlo? No, appunto. Io credo ci sia molto dell'aspetto motivazionale nel recupero, nell'idea anche di Allegri di schierarlo, perché altrimenti, come la raccontavate, era meglio Morata da innescare in velocità. E invece credo che stasera giochi Mandžukić tutta la vita. Un altro, insomma, dà un altro peso proprio in assoluto, in generale, anche se poi Morata è l'uomo dei 7 gol nel 2015, degli 8 gol in carriera in Champions League, tutti contro tedesche, spagnole e inglesi, quindi tutte partite pesanti. Importanti, pesanti. Aldo, un'ultima cosa, Buffon o Neuer oggi? Beh, oggi forse Neuer ha qualcosa in più di Buffon, ma Buffon ha fatto la storia e per 20 anni è stato fra i primi 3 portieri al mondo, e quindi Buffon tutta la vita. In questo momento Neuer per età è sicuramente il portiere che è più completo. Grazie Aldo. Ciao. Adesso ti mando Pardo. C'è il presidente Berlusconi sulla svolta vegetariana. Buonasera, un saluto molto coeso, particolarmente positivo. Io ho una fame, mangiare a tutti una quanti. No. Allora, assolutamente ho una deciso fermamente oggi, che non mangerò più carne. Perfetto. Basta sofferenze agli animali e soprattutto basta figa. No, la mia è una svolta, è una svolta totale, completa. E io camminerò d'ora in poi. Che è una canzone. Io camminerò. Pardo, io ho intenzione di diventare fruttariano, però attenzione, fruttariano. Mangiare solo frutta, però non mele marce. Comunque io continuerò a camminare come io da giovane. Continuerò. Io non dico di sterminare Pardo, ma contenetelo in qualche modo, perché camminerò e farò come diceva sempre mia mamma Rosa, cioè mi metterò un campanellino sulla cintura, così camminando spaventerò le formiche e gli insetti senza calpestarli. E poi sulla collocazione di quel campanellino ci sono alcune dispute. Ma non comunque, è lì dove crede ci lei. Ci sono varie scuole di pensiero. Assolutamente. Pardo, lo scorso anno la Juve ha incontrato solo squadre di terza fascia fino alla semifinale. Su, diciamo la verità. Io che vi devo dire? Io penso che in finale di Champions non ci si arrivi per caso. Penso che quella partita la Juve sarà giocata, lo ripeto, a testa alta, così mi prendete in giro un altro po', e che abbia fatto il massimo possibile contro la squadra più forte del mondo, che era il Barcellona. Eliminare il Real Madrid non mi è sembrato così semplice. Sicuramente il Dortmund non era nella migliore condizione possibile, ma ha vinto il girone davanti all'Arsenal, quindi comunque insomma il suo nella prima parte della stagione l'aveva fatto. Il Monaco era una squadra alternativa e lì sicuramente la Juve non era stata particolarmente brillante. Però insomma, francamente, in finale di Champions non ci arrivi, certo, per non caso. È, non è come il grande Milan, che invece doveva battere ogni, anzi, battere, contento per ieri, presidente? Ogni grande avversario. Abbiamo fatto una partita molto giudiziosa, molto coesa, positiva e con un'ottima organizzazione di gioco. E lei dopo la partita ha festeggiato con una bella cena a base di? Allora, abbiamo mangiato verdure grigliate e poi una bella Macedonia. Invece niente mele marce, naturalmente. Invece ho visto che Sinisa ha optato invece per altre cose. Ha stappato una bottiglia di prosecco perché ha detto: non siamo ancora allo champagne, ma neanche semplice gazzosa. Così ha detto e poi è uscito praticamente a quattro zampe e io ho detto: non abbattetelo perché sono animalista. C'è qualcuno quindi che non mangerà neanche più carne di allenatore lei? questo è un aspetto che bisogna scindere assolutamente da quello che è l'aspetto della vita privata e delle scelte alimentari. Qua stiamo parlando di professione. Certo. Se vince tutte le partite con quattro reti di scarto, no, ma ne ha sicuramente... pareggiata già una. Quindi. C'è chi parla di una possibile svolta, guardate, comunista. Guardate Cruciani che cerca di fregarmi la chiavetta, ma ce l'ho io, ce l'ho qua e non me la può. Questa è la mia, Cruciani. Cruciani. Ragazzi, ma perché ha detto tacito? Adesso, adesso è capace di entrare in diretta e di fregarmi la chiavetta, vuoi vedere? Sì, io sto per mettere fine adesso. A questo. Oh, Gianni, dacci la chiavetta! Cioè, guardate, ho metto anche i soldi, ragazzi. Sì, facciamo un attimo, guardate. Gianni, facciamo Enricoletta, dacci la chiavetta! Perché, poveraccio, Enricoletta che ha fatto? No, vabbè, grande milanista, Enricoletta. Grande milanista, infatti stiamo parlando per questo, qui del infatti, Milan. Esatto. Infatti, ragazzi, vorrei chiudere questo caravanserraglio. Per favore, intanto si è fregato la mia chiavetta. C'è Ugo da Lucca. Ugo, no, non ce la facciamo. Ma come, Ugo da Lucca? Te lo dico io. Ma ci tengo, ma sono amico di Ugo. Ugo da Lucca, sono più importante io di Ugo da Lucca. Io ringrazio tutti voi, da Giovanni Capuano a Pierluigi Parra, Andrò Mercucci. Ci troviamo domani. Ma intanto vi faccio sentire l'intervista a Bruno Cerella, storia bellissima, che ha contribuito a portare la Coppa Italia di basket a Milano dopo 20 anni. Dopo essere stato appena operato. Ciao a tutti. Bruno Cerella, per carità, grande vittoria di squadra questa Coppa Italia, ma in qualche modo sei diventato un po' il protagonista, sia per quello che hai fatto in campo sia anche per questo ginocchio. Senti, ma come hai fatto a recuperare in meno di 24 ore da un intervento al menisco? No, in realtà non ho mai recuperato, però io mi sono operato sabato, mi sentivo bene. E parlando con il dottore durante l'intervento mi ha detto se volevo andare in campo domenica in un'eventuale finale, e io ho detto logicamente di sì, cioè, per me era un sogno poter esserci in quella finale, quindi mi sono mentalizzato di dover alzarmi domenica mattina e andare a fare allenamento con la mia squadra, quindi direttamente dall'ospedale sono andato al Lido e ho fatto allenamento prima dei miei compagni per provare un po' come era la situazione. Ho visto che il ginocchio rispondeva bene, che era un po' indolenzito, un po' gonfio, ma normale. Quindi la sera sono andato alla partita e mi sono reso disponibile per l'allenatore. Io sono molto felice perché di sicuro, visto che non si giocano finali tutti i giorni, essere stato presente, aver fatto parte di quella battaglia che abbiamo vinto è stata una cosa fantastica per me, pensando che il giorno prima ero sotto i ferri con il dottore Marco Bigoni, e è veramente qualcosa di fantastico. Beh, senti, forse non ce n'era bisogno perché già lo eri prima, ma dopo questo exploit sei ancora di più l'idolo del popolo dell'Olimpia. Ma non lo so, io l'ho fatto per una cosa personale, io mi sentivo di dover andarci, cioè mi sentivo di dover essere in campo in quel momento, e ovviamente se sarei stato proprio male di non riuscire a camminare, cioè non avrei fatto una follia, di sicuro agli occhi di qualsiasi persona è una follia, perché anche i miei compagni me lo hanno detto ieri, però io mi sentivo in grado di farlo, quindi sono il uomo più felice al mondo di aver fatto questa scelta, ma soprattutto sono felice che l'allenatore mi ha messo in campo e che il dottore ha spinto per farmi giocare. Il ginocchio, insomma, va bene. Dopo la partita mi è calata tutta l'adrenalina e tutto ciò che ho passato le ultime 48 ore, e mi è salita tanta febbre, e quindi non sono neanche andato a festeggiare. Stamattina mi sono alzato un po' meglio, ho fatto un po' di terapia, ma per fortuna il ginocchio non si è gonfiato più di tanto, e c'è un po' di edema, un po' di libido, però si migliora. Parlando un attimo di quello che si è visto in questa Final Eight, è una Milano che ha cambiato pelle rispetto a quella che era uscita dal mercato estivo e sembra ora adesso sulla strada giusta, no? Allora, io penso di sì, che comunque la squadra stia trovando una strada, un'identità. questa vittoria sicuramente regala tanta fiducia, regala serenità per quello che deve venire ancora, ma soprattutto dà tanti stimoli per continuare il nostro lavoro. Se dovessero mancare stimoli e motivazioni a qualcuno, pregasi rivedere la finale di Coppa Italia di Bruno Cerella, no? Sì, va bene, lo possiamo dire.